vado da fatto. Voi sapete come facetto, voi sapete come facetto. Fantastica canna bella, fantastica canna bella. Tutto quello che mi aspetta, tutto quello che mi aspetta. Se andrò singapucciato, dinna marta da miscato. Latte rosso, rosa e latte, da facetto un troppo fatto. Non c'è bisogno di ingere, faccio la congè. Come da fatta mamma te, saccio meglio te. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non serve la stessa dose, non serve la stessa dose. Voi sapete che non ci mettete, voi sapete che non ci mettete. Mo te dico tutta cosa, mo te dico tutta cosa. Non parlare chi è tutte fra le giardino. Nelle zucchero e cannella, te bastai sta bocca bella. Non c'è bisogno di ingere, vatte per la concia. Come da fatta non me da.